Per passare un capodanno decisamente diverso, quest'anno a Bologna si può andare al Teatro Odeon e siamo qui per parlarne con una delle attrici che poi effettivamente salirà su quel palco. E quindi do il benvenuto a Martina Valentini Marinaz. Ciao Martina e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, ciao a tutti e grazie per l'invito, grazie mille davvero. Allora Martina, come dicevamo appunto al Teatro Odeon ci sarà uno spettacolo di Capodanno e tu sarai una delle attrici sul palco. Lo spettacolo è Flower Power e che cosa racconta? Ti va di raccontarci un po' questo spettacolo? Assolutamente sì. Allora, Flower Power, innanzitutto è scritto e diretto dal direttore artistico del Teatro Odeon, compagnia Teatro Aperto, che è Piero Ferrarini. Come suggerisce il titolo, Flower Power è ambientato nella San Francisco della fine degli anni 60, quindi un periodo di cambiamenti, di rivoluzioni, proteste, di massiccio uso di droghe, ma anche animato dal resto della società, quello restio e ribaltamenti di usi e costumi e perché no anche di valori. Quindi questo spettacolo è immerso in un contesto molto particolare, dove c'è una società costituita da sognatori, romantici, desiderosi di cambiare la qualità del tessuto sociale, ma anche una società fatta di chi prende la palla al balzo per approfittare della situazione e dei tumulti sociali, ma anche interiori dell'individuo, per riempire le tasche e l'ego. Quindi da qui possiamo arrivare allo spettacolo vero e proprio, cioè mi piacerebbe delineare un attimo i protagonisti, così riusciamo a capire molto meglio la storia. Vediamo Joan e Stephen Craig, che sono coniugi, che vivono in un modestissimo appartamento, un appartamento in cui si svolgerà tutta la vicenda. Lei è una congregazionalista battista, se non uno show di lingua, rigida, pacchettona, che getta tutte le sue insoddisfazioni e scontentezze nella pretesa di acquistare, cambiare, accumulare oggetti elettrodomestici, no? Tutta una serie di richieste pretenziose per sopperire a una mancanza, a una continua frustrazione, anche per affermarsi come individui inseriti in società. Lui invece, Stephen, è un docente di chimica all'Università di Berkeley, è sottopagato, uno dei motivi di scontro tra i coniugi ovviamente, il quale assieme al suo amico Kenny, che è un professore di filosofia privo di etica e morale, decide di cercare di accontentare le pretese dei giovani intraprendendo una strada che si rivelerà essere ricca di esilaranti imprevisti. Vi domanderete quale strada? Ovviamente quella del traffico di stupefacenti, in modo completamente ingenuo e privo di esperienza, soprattutto da parte di Stephen. Su questa strada incontreranno altri personaggi, ad esempio Mike Pistone, capo di una banda di motociclisti, dedita alla malavita, e anche la sua fidanzata, Sterry, una giovanissima tossicodipendente hippie. E un'ultima figura di grandissima importanza è costituita dal reverendo Barlow, che è un congregazionalista battista, il quale contribuirà in modo sostanziale e inaspettato alla svolta di tutta questa storia. Quindi è una commedia veramente divertente, dai toni che potrebbe finire graffianti, no? Tipici della scrittura di Piero Ferrarini, vi lascerà sicuramente un segno. Vi divertirete, è un modo bello per passare l'ultimo dell'anno, insomma dopo un anno così particolare, pesantuccio, no? È uno spettacolo che farà riflettere, instillando domande, perché no, suggerendo anche delle risposte, se non per marzullo. Altrimenti noi del teatro che stiamo a fare qua, no? Quindi oltre a intrattenere dobbiamo un po' far riflettere. Quindi secondo me il 31 dicembre è un'ottima occasione per passare l'ultimo dell'anno insieme, non il brindisi della mezzanotte causa Covid, infatti andremo in scena alle 20. Così avrete anche tutto il tempo per capire come festeggiare e brindare a modo vostro uscendo dal teatro. Perfetto Martina, ti volevo infatti proprio chiedere che cosa vuol dire passare un capodanno a teatro, ecco, cioè è qualcosa di un po' magico, super particolare immagino. Io credo di sì, in questo periodo davvero difficile, particolare, intenso, credo che passare Capodanno, l'ultimo giorno dell'anno in teatro, è un modo un po' per condividere veramente dal vivo una situazione magica che è quella del teatro, una condivisione vera che ovviamente con la pandemia è stato difficile vivere, no? Perché eravamo tutti molto distanti, dietro un computer, dietro i cellulari, è un modo un po' per, chissà, speriamo, per riprendere la vita. Diciamo che un po' invece dell'ultimo dell'anno dovrebbe essere l'inizio di una nuova era, mi auguro. Eh sì, ce l'auguriamo decisamente. L'ottimismo. Esatto, l'ottimismo non deve mancare mai. Esatto. Io Martina ti ringrazio veramente per averci raccontato un po' lo spettacolo che, ricordo ancora, andrà in scena a Capodanno, Flower Power, al Teatro Odeon. Grazie ancora Martina. Grazie a te, grazie a te.